e le idee. 20 secondi, il meglio di Alza il Volume si congeda e Fahrenheit inizia il suo cammino. Benvenuti anche oggi da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit, ovvero Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Francesco Frisari, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Enrico Murgia alla console. E anche oggi aspettiamo i vostri messaggi via SMS al 335-5634-296. Aspettiamo le vostre mail a fare con l'h al centro @rai.it, i vostri commenti sulla nostra pagina Facebook, i vostri tweet a Radio 3 Tweet. 11 luglio 1995, 11 luglio 2015. Domani dunque saranno 20 anni trascorsi dal peggior massacro commesso in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. All'orrore di Srebrenica molta parte della programmazione di Radio 3 è stata dedicata oggi. Vi dico subito che anche domani ci sarà la puntata di Pantagruel con la conduzione di Luigi Spinola, che intorno alle 17.30 si collegherà in diretta da Srebrenica con Roberta Biaggiarelli, che in occasione del ventennale dell'eccidio ci racconterà la cerimonia della sepoltura con la quale i familiari ricordano i loro parenti. Certo, a ogni anniversario e soprattutto a ogni ventennale, in questo caso, non può che tornare la domanda su come sia stato possibile quel massacro di 10.000 uomini, ragazzi e direi bambini, perché avevano fra i 12 e i 76 anni, catturati, torturati, uccisi, sepolti in una fossa comune. Torna ed è giusto porla questa domanda e noi la rivolgiamo ai nostri ospiti. Riccardo Nuri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty International insieme a Luca Leone, che avete sentito questa mattina a Tutta la città ne parla, ha scritto per Infinito Edizioni Srebrenica, la giustizia negata, e vedremo poi insieme perché questa di giustizia ancora non è possibile parlare a 20 anni di distanza. Siamo in collegamento anche con Azra Ibrahimovic, buon pomeriggio. Purtroppo il collegamento con Azra Ibrahimovic è piuttosto esile, noi speriamo di poterlo mantenere durante il corso della trasmissione, perché è una testimonianza importante quella di Azra Ibrahimovic, che è responsabile per il CESVI della Casa del Sorriso di Srebrenica e partecipa tra l'altro alla Marcia della Pace che, come sapete, si tiene ogni anno in memoria delle vittime del massacro, 100 km in 3 giorni, partita mercoledì 8 luglio da Nezuk fino al memoriale di Potokari, dove avverrà la commemorazione. È proprio nel bosco in questo momento Azra Ibrahimovic con la marcia. Noi adesso cercheremo di richiamarla per migliorare il collegamento. C'è uno scrittore anche con noi, Marco Maggini, bentornato. Marco Maggini, eccolo, buon pomeriggio a lei. Marco Maggini ha raccontato quello che è successo a Srebrenica, un libro molto bello che è stato presentato qui a Fahrenheit, si chiama Come fossi solo ed è stato pubblicato da Giunti. Io vorrei partire da lei, Marco Maggini, perché forse la voce di chi narra, di chi usa le parole per raccontare, la voce che può aiutarci a capire, perché come molti degli ascoltatori di Radio 3 sanno, perché come detto non soltanto Tutta la città ne parla ma un po' tutte le trasmissioni Radio 3 Mondo naturalmente si sono occupate di Srebrenica, quindi hanno avuto contezza anche delle novità, diciamo, recenti, delle novità di cui si è occupato anche lei, tra l'altro, Marco Maggini, che ha scritto per Huffington Post di quei terribili 30.000 litri di benzina che sarebbero testimonianze, lo ricordano anche su Internazionale due straordinari giornalisti che sono Florence Hartmann ed Wulliamai, che hanno scritto per The Observer: Srebrenica fu abbandonata. Ecco, di quali furono le responsabilità delle Nazioni Unite in quel massacro? Vogliamo partire da qui con le parole di uno scrittore? Sì, senza dubbio la rivelazione dell'Observer è qualcosa che fa quantomeno inorridire. Ci troviamo adesso a commemorare un massacro che non solo poteva essere evitato, ma del quale eravamo malcorrente. Ancora una volta abbiamo queste testimonianze mostrano come l'Europa abbia preferito in qualche modo una scorciatoia, quindi cercare in qualche modo di eliminare questa anomalia, questa piccola enclave all'interno di un territorio che era di fatto diventato serbo, e per farlo ha chiuso gli occhi davanti a quello che sapeva che era a questo punto, possiamo dirlo, un eccidio annunciato. Mi fa piacere che abbia menzionato l'articolo sul Huffington Post, perché ci sono molti paralleli purtroppo con tante cose che vediamo anche oggi, e lì lo sottolineavo. È uscito ieri un comunicato stampa di Amnesty che mostra come negli ultimi due mesi, per esempio anche a livello di immigrazione, si è passato da un morto ogni 16 migranti a un morto ogni 427. Quindi alcune volte ci troviamo a domandarci davanti a tali tragedie come è potuto succedere, e purtroppo ci rendiamo conto che in realtà la risposta l'avevamo prima ancora di porci la domanda. Allora, intanto ovviamente proviamo a richiamare anche Marco Maggini, perché oggi le linee ci tradiscono, anche se Maggini non si trova in questo caso nella zona irraggiungibile tra Nezuc e Potokari, dove c'è Azra Ibrahimovic, che stiamo sempre cercando di contattare. Riccardo Nuri, io vorrei partire dalla mancata giustizia, ma la considerazione che forse si può fare anche alla luce delle rivelazioni dell'Observer, che mostrano documenti alla mano e appunto prove alla mano, come le Nazioni Unite, che pure avevano promesso non vi abbandoneremo mai a coloro che erano rifugiati a Srebrenica, erano coinvolte in realtà nella decisione di quel massacro. Questa notizia, questa serie di notizie, questa serie di documenti, di testimonianze, di dichiarazioni, va anche a dimostrare, forse a incrinare, quel mito dell'Unione Internazionale che sta scricchiolando parecchio, tra l'altro anche per altri motivi, in queste settimane? Beh, direi di sì, perché se non ci fosse stata successivamente la vicenda della Siria, quella di Srebrenica sarebbe stata la manifestazione più evidente nella storia delle Nazioni Unite del fallimento completo di questa organizzazione. Nella vicenda della Bosnia noi abbiamo raggiunto dei picchi di cui Orwell sarebbe stato orgoglioso, zone della Bosnia chiamate zone protette da una risoluzione del 93, da 819, e che furono abbandonate a se stesse, consapevolmente, perché il generale Morion, il francese Morion, in una riunione a porte chiuse due mesi prima dell'inizio del genocidio di Srebrenica disse chiaramente che la città era persa. C'è chi pensa che abbiano semplicemente sottovalutato l'orrore di cui potevano essere capaci le forze serbo-bosniache di Mladic, però quel genocidio c'è stato, il più veloce della storia, e 20 anni dopo dobbiamo trarre delle conclusioni amare su l'assenza di giustizia, sulle mancate scuse, su una memoria che non solo non è condivisa, ma non è neanche rispettata, e questo forse è il fatto più grave, perché continua ad attizzare odio tra le varie nazionalità. E in tutto questo la comunità internazionale, con i soldati olandesi del battaglione Dutch 2, che erano quelli, i caschi blu presenti a Srebrenica in quei giorni, ha fatto una figura semplicemente vergognosa. Ecco, colpisce molto, io cito sempre quell'articolo di Internazionale, colpiscono molte cose in realtà, Riccardo Nuri, però colpisce l'epilogo, perché lei ha detto poco fa non c'è nulla di sanato, non c'è una memoria condivisa, e io mi chiedo, le chiedo anzi, come ci può essere una memoria condivisa quando chi ne era responsabile? Penso per esempio a Toby Gatti, che è il sottosegretario di Stato per l'intelligence degli Stati Uniti, che parlando con l'attuale ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Samantha Power ha detto, mi verrebbe da dire candidamente, anche se mi rendo conto che non è certo l'avverbio più indicato, fermare la pulizia etnica non era una delle priorità. Quando decidi di non intervenire, queste cose succedono. Mi dispiace. E poi c'è un'altra dichiarazione, cioè una dichiarazione dell'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Boutros Ghali, che alla BBC ha dichiarato, ma lo dichiarò l'11 luglio del 1995, quando Mladic entrò a Srebrenica, ci dobbiamo rassegnare all'idea che siamo stati umiliati e ingannati, ma tra qualche giorno tutto questo apparterrà al passato. Ecco, rileggendole oggi, a 20 anni di distanza, o leggendole oggi per la prima volta, Riccardo Nuri, queste dichiarazioni effettivamente fanno pensare che quanto è avvenuto e possa essere sanabile soltanto con quella giustizia che voi raccontate essere negata tuttora. Sì, sì, sì, è chiaro. Se pensiamo che a livello internazionale, non considerando gli imputati della ex Jugoslavia, ma l'unico segno di giustizia l'hanno dato i tribunali civili olandesi, stabilendo la mancata protezione dei profughi usciti da Srebrenica e diretti al compound olandese. Ci rendiamo conto che dal lato della comunità internazionale nessuno si è assunto in pieno le sue responsabilità, e quello potrebbe essere un atto politico. Srebrenica era un errore perché era una enclave a maggioranza musulmana in un territorio che era stato già a tavolino destinato a quella che poi sarebbe stata la Repubblica Serba di Bosnia a seguito degli accordi di Dayton della fine del 95, e quindi è stata abbandonata volutamente al suo destino. E queste parole di oggi, di ieri, dell'altro ieri, confermano che la sorte era già stata decisa. Ora, se mettiamo insieme questa serie di testimonianze con quello che ha fatto la Russia 48 ore fa, cioè porre il veto a una proposta di risoluzione sul genocidio, capiamo che Srebrenica è ancora al centro di una contesa. Ma quando dico una memoria quantomeno rispettata, mi riferisco ancora ai tentativi che ci sono da parte serba di negare il genocidio, nonostante sia stato affermato da una sentenza della Corte di Giustizia Internazionale e da due sentenze del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Quando penso alla memoria che non è condivisa, penso ai manuali scolastici che nella Federazione e poi nella Repubblica dei Serbi di Bosnia raccontano la storia a loro modo, e in questo modo alimentando il nazionalismo. Ecco, sono questi i punti sospesi. E poi naturalmente c'è il lavoro insufficiente, infelice, inadeguato fatto dagli organi di giustizia. Allora, cerchiamo di partire dal racconto nuovamente di quello che avvenne 20 anni fa, poi torneremo a collegarci fra poco con Azra Ibrahimovic, a cui tra l'altro proprio su questo punto dei manuali scolastici potrebbe dirci delle cose molto importanti. Probabilmente fra una decina di minuti arriverà in un punto dove sarà possibile contattarla. Ci sono ovviamente molte domande che stanno venendo dai nostri ascoltatori e che vi rivolgerò fra non molto, però mi interessa sapere da Marco Maggini quali sono stati i passi che ha fatto per raccontare quello che sembra irraccontabile, perché lei ha scritto molto bene sempre su quell'articolo sull'Huffington Post: abbiamo già dimenticato, abbiamo trasformato in la memoria in simulacro, in materiale per le cerimonie, dimenticando di usarla come lente per capire il mondo in cui viviamo. Lei, per cercare di raccontare quel mondo, quella tragedia e persino poco per quello che è avvenuto a Srebrenica, ha scelto tre voci in Come fossi solo: quella di un magistrato spagnolo, quella di un casco blu olandese e quella di un soldato serbo croato, un volontario nell'esercito, che fu l'unico a confessare di aver partecipato al massacro. Perché scelse queste tre voci? La ragione è stata prima di tutto l'incontro con la storia di Dražen Erdemović, il soldato, l'unica persona di cui abbiamo testimonianza che si è opposto tra i massacratori al massacro di Srebrenica. Io l'ho incontrata questa storia nel periodo che stavo scrivendo la tesi, verso la fine dell'università, e mi sono sorpreso proprio dal constatare quanto poco sapessi di quello che era successo a Srebrenica. Il processo che ha portato alla stesura del romanzo è durato 4 anni, e in questi 4 anni, partendo da una storia, mi sono allargato, e quando mi sono allargato non ho potuto non guardare al Tribunale Internazionale dell'AIA e capire come la stessa organizzazione non ha impedito il massacro si arrogasse in un certo senso il diritto e il dovere anche di giudicarlo. E poi i caschi blu olandese, che erano più o meno coetanei in molti casi di Dražen Erdemović, e che allo stesso tempo si trovavano all'interno di un conflitto che non capivano e dal quale volevano solo andarsene più presto. Senta, è molto complesso poi in realtà andare a mettere le mani in una materia come questa, Marco Maggini. Io le leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando e che, devo dire, nella loro diversità un po' testimoniano tutto questo. Allora, c'è un messaggio però senza firma che dice, sempre al 335-5634-296: la pace ci sarà quando saprete raccontare il genocidio dei serbi e oggi del popolo del Donbass voluto dagli Stati Uniti e dall'Europa. C'è un altro messaggio firmato da Giovanni, questa volta: non se ne può più francamente di quest'araba fenice detta memoria condivisa. Le memorie non possono essere condivise quando i morti si sono portati per sempre via la propria. Christian da Modena: attualmente la Bosnia è un paese che, seppure fra mille problemi, è pacificato, non è in guerra, non mi sembra una sconfitta delle Nazioni Unite. Come risponderebbe a questi ascoltatori? Io vengo da due giorni dopo che ho pubblicato l'articolo, nel quale ho ricevuto veramente molte email, molte anche di toni molto disparati. Io credo anzi che, essendo italiano, che sia importante cercare di costruire una memoria condivisa, partendo dai fatti, cercando di investigare almeno quelli che sono i fatti. C'è sempre un po' il tema dell'altrismo: ma perché mi arrivano un sacco di me, ma perché non parli del Ruanda, ma perché non parli dei russi, ma perché non parli di tante altre cose. Io credo che ricordare Srebrenica voglia dire sia molto importante oggi, soprattutto per due motivi. Uno, lo racconta molto bene Rumiz in Voci per un massacro, perché comunque la Jugoslavia era, soprattutto nella generazione degli anni Ottanta, un paese che aveva trovato, era riuscito a raggiungere una unità. Quindi la guerra è stata fatta dalla prima generazione che si definiva pienamente jugoslava, e in questo senso bisogna capire come determinate parole di odio che vediamo anche oggi a volte nei media o che vengono fomentate nel quotidiano possano veramente tracciare queste barriere invisibili che portano a vedere il vicino o a volte perfino l'amico come un qualcos'altro, e a far rotolare su una palla che arriva fino a Srebrenica in fondo. E la seconda, proprio perché c'è il tema, come è stato raccontato bene dagli altri due ospiti, c'è forte il tema dell'indifferenza della comunità internazionale. La comunità internazionale sapeva e non ha fatto niente. È uscito ieri un bellissimo comunicato stampa di Amnesty, come dimostra che nei primi quattro mesi dell'anno sono morti un migrante su 16 di quelli che cercano di attraversare il Mediterraneo, mentre negli ultimi due mesi ne è morto uno su 427. Ora, non ci dobbiamo certo rallegrare che è morto un migrante su 427, però è proprio importante mostrare come a volte preferiamo non vedere e porci dopo la domanda: com'è che è potuto succedere? Ecco, io penso che Srebrenica sia quindi anche una lezione per evitare che certe dinamiche si ripropongano nel quotidiano. Vorrei sentire su questo anche Riccardo Nuri. Tra l'altro è stato diffuso anche un comunicato stampa che sarà reso noto sui quotidiani di domani da parte della sezione centrale, diciamo, della sezione internazionale di Amnesty, che dà anche diversi dati importanti anche sul numero delle vittime, sulla situazione appunto della giustizia sospesa, anzi negata, come dice il vostro libro, Nuri, nei confronti delle vittime stesse. Però, dicevo, tra gli SMS ricevuti a me colpisce molto quello di Christian, in realtà, perché quando dice: attualmente la Bosnia è un paese che, seppur fra mille problemi, è pacificato e non è in guerra, dunque non è una sconfitta, e va un po', e Christian mi perdonerà se uso il suo pensiero in questa direzione, che mi sembra peraltro l'interpretazione aderente al suo volere, cioè è come se quell'idea di Srebrenica sacrificata, come racconta appunto The Observer e l'internazionale che ha tradotto poi l'articolo, sia stata poi in un certo senso legittimata nella memoria comune? Beh, intanto dire che oggi in Bosnia non c'è la guerra è una cosa esatta, ma è una piccola parte della realtà. La Bosnia di oggi è una Bosnia che è stata ridotta a uno spezzatino dagli accordi di Dayton, che ha soddisfatto gli appetiti dei due nazionalismi, quello croato e quello serbo. È un paese diviso in tre, un paese nel quale vi è un sistema amministrativo folle che perpetua poteri locali, ognuno con un potere di interdire l'altro. È un paese dal quale si emigra perché c'è povertà estrema, è un paese in cui sono state svendute le imprese di Stato, in cui ci si arricchisce con riciclaggio di denaro sporco. È un paese nel quale soltanto cause naturali come la morte, hanno tolto di mezzo criminali di guerra che avevano nel dopoguerra mantenuto posizioni di potere. È un paese in cui c'è un genocidio 20 anni fa, un paese nel quale le donne che a migliaia hanno subito stupri sono abbandonate a se stesse senza alcuna assistenza se non quella delle organizzazioni locali di donne. È un paese nel quale una parte rilevante nega ancora che a Srebrenica sia successo qualcosa di importante. Dunque posso dire, come il premio Nobel per Seschivella amava dire, se non c'è pace non c'è giustizia, e siccome giustizia non c'è, dal mio punto di vista anche la pace è qualcosa di estremamente etereo e provvisorio. Adra Ibrahimovic, forse questa volta siamo riusciti a stabilire il collegamento con lei? Ci sente? Buongiorno, sì. Buongiorno. Allora, dove si trova in questo momento, per cominciare? In questo momento mi trovo in vicinanza del memoriale di Potoczari, sto facendo la marcia della pace e stiamo per arrivare al memoriale. Ecco, la marcia della pace, ci ricordi, Adra Ibrahimovic, si svolge ogni anno ed è un percorso a ritroso rispetto a quello di 20 anni fa. Esatto, è una marcia che si fa ogni anno, ormai da 10 anni, è diventata tradizionale. È diventata marcia di pace, quella che è stata una volta nel 95 la marcia della morte. Senta, Adra Ibrahimovic, ogni anno in memoria alle vittime, quelli che sono sopravvissuti al genocidio di Srebrenica. Senta, Adra Ibrahimovic, poco fa Riccardo Nuri citava appunto della difficoltà di ottenere una memoria condivisa, usiamo ancora questo termine, ricordava anche i modi diversi con cui i libri di scuola addirittura raccontano ai bambini quello che è avvenuto, e lei lavora, lo ricordiamo, come responsabile per il CESVI della Casa del Sorriso di Srebrenica. Ho letto una frase terribile in questi giorni negli articoli che si stanno scrivendo giustamente su Srebrenica, ed è: la guerra finisce, l'odio no. Allora, come si fa a far sì che invece l'odio si stemperi, almeno a 20 anni di distanza? Ci sono le condizioni? Come lavora lei? Come lavorano gli altri volontari? Questo è vero, purtroppo ancora a distanza di 20 anni c'è tanto odio. Bisogna lavorare, bisogna avere tanta pazienza, lavorare molto con i giovani, perché poi sono loro che saranno il futuro di questo paese. Purtroppo molti di loro sono influenzati dai genitori, dalle generazioni che hanno vissuto la guerra e che trasmettono quella che è parte negativa accumulata dentro di loro, trasmettono anche ai propri figli, se non anche ai nipoti. Ecco, noi che siamo riusciti a superare un po' questi traumi della guerra e che siamo riusciti a elaborare il dolore, cerchiamo di lavorare con i più piccoli per offrirgli una migliore visione e un migliore futuro di questo paese. Ci vuole tanta pazienza, e quindi lavorando insieme, giocando insieme, facendo piccoli passi insieme, si riuscirà. È un processo lungo che sicuramente richiede anche tanto tempo. Chi c'è attorno a lei, Adra Ibrahimovic, in questa marcia per la pace? Attorno a me in questo momento nella marcia della pace ci sono 8.000 persone tra bosniaci, italiani, francesi, tedeschi, insomma di quasi tutte le nazioni, la gente che è venuta, che ha voluto sacrificare la forza, l'energia in ricordo di tutti quelli che hanno corso verso il territorio libero per salvarsi e cercare la libertà. Senta, lei... Ci sono giovani, ecco. Ci sono anziani, ci sono anche i bambini. È una marcia di 109 chilometri che si fa in 3 giorni sotto il sole, attraversando le montagne, le strade, campagne, i villaggi distrutti. Si passa vicino alle fosse comuni che sono state scoperte e dove sono stati ritrovati tantissimi corpi di scheletri di quelli che sono stati uccisi nel 95. Senta, Adra Ibrahimovic, ci sono delle cicatrici morali, emotive, profondissime, lei lo ha detto poco fa, lo ha provato sulla sua pelle, ci sono delle cicatrici e dei pericoli anche reali su cui ci si dovrebbe muovere. Per esempio lo sminamento in Bosnia e Erzegovina doveva concludersi nel 2009, ma non è stato ultimato, o sbaglio? Non è stato ultimato e ci vorrà ancora, ci vorranno tanti anni, ho paura di dirlo, però secondo me alcune parti non saranno mai sminate, perché ci sono campi minati dove non esistono le tracce, non esistono le mappe di questi campi minati. Noi, facendo la marcia, praticamente abbiamo affiancato tanti campi minati, quindi è un problema reale che viviamo giorno dopo giorno. Allora, Riccardo Nuri, io vorrei tornare a lei, anche perché di nuovo si crea una contrapposizione fra chi ci scrive, ma questa contrapposizione fra chi ci scrive io credo che rispecchi una contrapposizione purtroppo reale, perché quando si parla di Srebrenica c'è sempre qualcuno che ci dice: ricordate solo i massacri dei serbi, gli eccidi dei croati, degli albanesi, dei kosovari e dei musulmani bosniaci non esistono, oppure perché non parlate appunto come del genocidio di Sabra e Ciatila, eccetera. L'eccetera non vuole essere evidentemente semplificatorio, è che ogni volta si ripropone una dicotomia. Allora, come si muove? Come ci si dovrebbe muovere? Poi questa domanda evidentemente la farò anche agli altri due ospiti, la faccio perché è la domanda delle domande, io credo, a Marco Maggini e anche a Azra Ibrahimovic. Come ci si muove per far sì che il muro di, non dico odio, però di sospetto reciproco, venga almeno nelle parole, nell'atteggiamento e quindi nelle azioni, comprese le azioni politiche internazionali, venga abbattuto? Lo so che è la domanda delle domande, me ne rendo conto, Nuri, però va posta, credo. Certo, se pensiamo che già qui in Italia, quando si parla di Srebrenica, ci si schiera sugli spalti come se si stesse assistendo a una partita di calcio, immaginiamo in Bosnia come la situazione. Quindi questo è uno specchio di una realtà di contrapposizione che è estrema, lì e già da noi è impressionante. Ma una cosa è vera, cioè intanto la giustizia non è mai fetta. Sicuramente i crimini commessi dal lato della Croazia, soprattutto quelli nell'operazione Tempesta alla fine del 95, sono passati un po' in cavalleria, come si dice, nell'elenco dei casi trattati dal Tribunale Penale per la ex Jugoslavia. Molti sono rimasti impuniti, alcuni di questi, penso a Dante Gotovina, sono degli eroi nazionali. Detto questo, per quale ragione noi dobbiamo ogni volta negare, offendere la memoria dei morti andando a raccontare vicende di altre epoche, di altre questioni? Poi quando francamente si rimprovera l'Amnesty International di non parlare di quello, non parlare di quell'anno, di quell'altro, è una grossa ingiustizia, perché c'è Sabra Ciatila, io me lo ricordo tutti gli anni, dell'operazione Tempesta croata ne ho parlato adesso, però oggi io vorrei si parlasse del genocidio di Srebrenica, che non offende alcun altro, ma è soltanto un modo per onorare le vittime, onorare le persone che stanno marciando e sono i parenti dei morti di Srebrenica, che stanno marciando adesso verso Potoçari. Le parole del narratore, noi l'abbiamo detto all'inizio, Marco Maggini, forse possono essere le parole che aiutano ad abbattere questo muro. Come diceva bene la domanda delle domande, io mi sono affidato agli strumenti del romanzo, proprio perché i romanzi aiutano a battere i muri, perché aiutano a fare un collegamento emotivo. Per il tempo di quelle 100-200 pagine tu entri in una storia a te anche lontana, e dal momento che la storia ti si avvicina magari ti aiuta un po' a comprenderla. Io non l'ho fatto dando risposte, almeno mi sono sforzato soltanto di porre delle domande in maniera forse un po' più articolata. Ecco, questo è stato forse il mio modo di contribuire a battere questi muri. Azra Ibrahimovic, la domanda delle domande a lei, forse è la persona che può rispondere meglio, proprio perché si occupa e lavora per le generazioni che verranno, o per le generazioni che appunto domani, oggi sono bambine e bambini e da domani saranno gli adulti, e quindi forse questo è il modo per abbattere quel famoso muro. Esatto, se ognuno facesse il proprio ruolo, quindi svolgesse nella maniera in cui lo dovrebbe fare, seria e approfondita, credo che le cose possono avanzare e andare meglio avanti. Cosa intendo? Concordo, se la giustizia fosse un pochino più veloce e si facesse veramente, che poi dall'altra parte ognuno di noi si confronta con se stesso e quindi affronta anche il problema del genocidio, ma anche altri crimini che sono stati commessi anche da altre parti. Quindi io non parlo di una strada unidirezionale, però bisogna fare un percorso bidirezionale, ok, ammettere che anche dall'altra parte ci sono stati commessi crimini, però accettare anche che è stato commesso un genocidio grave. E quindi da lì partire e comporre pezzo per pezzo, quindi partire e rafforzare il sistema di educazione, rivedere un po' quelli che sono libri, chi li ha scritti, come li ha scritto, sulle quali basi ha usato. Quindi tutto, rivedere tutto il sistema e ricominciare piano piano. Ok, abbiamo perso 20 anni, ne perderemo magari altri 10, però finalmente ci muoviamo e andiamo avanti, non rimaniamo ostacolati e non rimaniamo i prigionieri della politica di questo paese gestita veramente male e dalle persone che non hanno competenza e la forza di portare un vero progresso in questo paese. Grazie Azra Ibrahimovic, grazie a Riccardo Nuri, grazie a Marco Maggini per essere stati con noi questo pomeriggio. Io vi ricordo che Radio 3 continuerà ad occuparsi del ventennale del genocidio di Srebrenica domani con Pantagruel, condotto da Luigi Spinola. Intorno alle 17.30 ci sarà un altro collegamento in diretta proprio da Srebrenica con Roberta Biaggiarelli, che si occupa ormai quasi da 20 anni di quello che è avvenuto con azioni artistico-storiche e di volontariato. E con Roberta Biaggiarelli ci sarà anche Ado Asanovic, un giovane regista originario di Srebrenica che era un bambino all'epoca del genocidio. Cuento no me